Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Proponiamo oggi la seconda parte dell'intervista a Paolo Giordano sul suo nuovo romanzo Il corpo umano, pubblicato, lo ricordiamo, da Mondadori e uscito la settimana scorsa. La prima parte è disponibile su radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. Nella prima parte dell'intervista Giordano ci ha spiegato perché ha scelto di parlare di un gruppo di militari italiani in Afghanistan e ci ha parlato anche di alcuni personaggi. Ora ripartiamo da una scena precisa del romanzo. C'è un'esplosione e Giordano sceglie di descrivere l'orrore, il dolore, prima attraverso alcune pecore che sono state ferite, sono insanguinate, e solo dopo l'attenzione va sugli uomini. Questa, insomma, è stata una scelta studiata, e perché? Sentiamo che cosa ci ha risposto Giordano. Ammetto di non averla mai pensata, di non averla mai molto razionalizzata quella scena, e che probabilmente la scena, diciamo, in cui tutto il libro collassa, tutto quello che è stato preparato dai due terzi del libro collassa veramente e assume una portata reale. Credo sia uno di quei passaggi che succedono un po' malgrado te, è come se io l'avessi covato per tutta la prima parte del libro e poi è uscito in quel modo in maniera quasi irrazionale quando l'ho scritto, per cui non saprei darti un'interpretazione pensata del perché gli animali, perché quegli animali e poi gli uomini. È una scena che io ho davvero visto così, e non capita sempre, spesso uno ci arriva alle cose anche pensando. In quel caso è stata una piccola esplosione anche dentro di me e l'ho accettata per quello che era. In questo romanzo è stato utilizzato un titolo molto diverso dalla Solitudine nei numeri primi, che era un titolo evocativo, romantico. Qui è molto secco, Il corpo umano. L'hai scelto tu o l'editore? Soprattutto, perché questa scelta? No, il titolo l'ho scelto io. In realtà il titolo è nato insieme all'idea del libro, per cui in un certo senso quasi lo precede. Mentre nel caso della Solitudine il titolo è stato trovato a posteriori, quindi in un certo senso racchiudendo il significato del libro, qua il titolo arriva prima ed è stato un titolo guida per me durante la stesura del libro. Credo che l'aspetto che più mi colpì la prima volta che sono andato in Afghanistan è stato proprio questa presenza molto viva dei corpi dei militari. Questa anche il fatto di vivere insieme in tende per 6 mesi e quindi condividere tutto anche a livello fisico è stata per me un'esperienza da osservare molto forte. E quindi quello è l'elemento che prima degli altri mi ha colpito, e ho deciso che questa storia sarebbe stata davvero mediata dai corpi più che dalle menti dei personaggi. In effetti tutto accade molto a un livello fisico, credo, concreto anche nel libro. Beh, a proposito di corpo umano, io ho trovato che alcune delle pagine più belle di questo romanzo siano quando descrivi questo militare sardo che viene colpito da un attacco di dissenteria. Ci sono 3 o 4 pagine dedicate a questo, e le ho trovate effettivamente molto, molto coinvolgenti. Sembra quasi strano essere coinvolti da un ragazzo che abbia la dissenteria. Perché hai deciso di dedicarci tutto questo spazio? Ma è chiaro che io debba avere, non voglio indagare sui motivi, però debba avere un qualche tipo di interesse narrativo per gli argomenti, diciamo, scatologici, perché il primo capitolo della Solitudine cominciava con una bambina che aveva un incidente perché doveva fare la pipì, quindi anche qui c'è una linea di continuità strana fra i due libri. C'è un motivo anche molto vero e serio, e cioè il fatto che in un avamposto come quello del Gulistan che ho visitato io, il problema primario, come spesso accade quando si è in dei posti dove non si hanno i normali agi, è quello dei bisogni corporali, cioè forse è la difficoltà di vita comune più grande lì. Bisogna condividere questi bagni, che sono dei bagni, di specie di bagni chimici, estremamente angusti e scomodi, all'aperto quasi. È facile che facendo quel tipo di vita lì ci si possa anche ammalare di malattie intestinali per dei periodi. Quindi è un tipo di esperienza che credo ogni soldato ha molto ben presente. In questo senso era quasi imprescindibile da aggiungere come esperienza. E per me aggiungeva un tassello a questo legame con il corpo di cui dicevo riguardo al titolo. L'idea che a volte le urgenze del corpo riescono a cancellare tutto il resto e a diventare davvero ancora la cosa primaria, anche oggi che ci sentiamo così evoluti e così quasi emancipati a volte dal corpo. Paolo Giordano con l'opera prima, La solitudine dei numeri primi, ha avuto un successo strepitoso. 2 milioni di copie, Lo strega, Campiello opera prima e così via. Adesso come ti poni di fronte a questo libro? Cioè che tipo di emozione hai? Che peso hai anche sulle spalle visto il successo enorme che hai avuto con il tuo primo romanzo? Il grande elemento, la grande differenza è una consapevolezza maggiore di quello che succede e di quello che sta per succedere che io ho. Mentre il vortice del primo libro mi aveva colto talmente alla sprovvista, soprattutto nei primi 2 anni, che avevo seguito una scia di eventi, a volte quasi senza rendermi veramente conto. Questa volta no, per cui cerco di valutare molti passi e anche di sottrarre tutto ciò che è superfluo. Credo che la sfida grossa fosse quella davvero con me stesso, di riuscire infine a sentirmi legittimato a stare dove gli eventi mi avevano posto. E questo l'ho fatto, il libro c'è, penso che sia un libro che mi rappresenta e questo forse è stato il traguardo più difficile. E quindi quello che arriverà è davvero un di più. Ovviamente ho delle aspettative, ma adesso riesco a vedere un percorso davanti. Mentre prima il mio orizzonte si fermava veramente al secondo libro, adesso riesco a vedere davanti degli anni. E un'altra cosa in cui mi sono molto tranquillizzato e rasserenato è il fatto che con un primo libro hai l'idea che un po' tutto quello che era il tuo mondo, quello di cui potevi parlare, di averlo già esaurito lì. E invece adesso ho scritto un romanzo che è ambientato in Afghanistan, non ci avrei mai creduto se me l'avessero detto. E questo mi dà la fiducia che c'è un intero mondo che posso esplorare con la scrittura e che forse mi piace questo. Forse non ho più tanta voglia di avvitarmi su di me, ma ho voglia di guardare fuori. Questo rende il tutto molto più luminoso. Però ecco, il precedente di 2 milioni di copie ti fa un po' paura. Io penso che un successo come quello della solitudine non sia doppiabile, perché sono è entrato in quel successo una serie di elementi anche circostanziali, del giovane esordiente, di una voce che, come dire, a un certo punto si diffonde incontrollata, per cui delle persone insospettabili quasi hanno letto quel libro, persone che magari leggono un libro ogni anno. Non so, dubito che sarà questo stavolta, ma non me l'aspetto. Credo che tra 10 anni o tra 20 anni guarderò il mio percorso e sarà la solitudine l'anomalia nel percorso. L'anomalia bellissima, ma anche irripetibile, mentre io sarò andato a scavarmi il mio giusto spazio in questo mercato, in questo mondo editoriale. La solitudine dei numeri primi ha attirato anche un pubblico di giovani, no? Perché c'era una storia adolescenziale, così abbiamo visto le ragioni anche del suo successo. Questo è un libro, secondo me, diretto più a un pubblico adulto, fra virgolette, cioè dai 20 anni in su almeno, perché ci sono delle emozioni forti e delle cose che solo chi ha una certa età può capire fino in fondo. Questo, secondo te, può essere un limite o può essere invece un vantaggio? Io penso che sia semplicemente giusto, forse, una questione di coerenza con la trasformazione che ho avuto anch'io. Il libro stesso parla dell'emancipazione rispetto a un certo tipo di mondo giovanile, a quell'età di passaggio. Questo non penso significhi per forza che chi non ci è arrivato non possa coglierlo, comprenderlo. Però di sicuro parla di un segmento di vita che è quello successivo a quello della solitudine dei numeri primi. E in realtà non mi preoccupo troppo di chi lo leggerà. Penso che poi i libri abbiano davvero, i libri e i lettori siano davvero meno prevedibili in questo genere di cose rispetto a quello che si pensa. E quindi sinceramente non lo so chi leggerà questo libro. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che ci trovate anche su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.